Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ha battuto l'età, la gravità, la storia, la logica, ha battuto il mondo in uno stadio olimpico. Così hanno scritto di lui, è un uomo che ci ha sempre stupito, che si è distinto sui campi di atletica in due specialità, il salto e la corsa. Con il suo talento insuperabile nel salto in lungo e la sua velocità di base pazzesca negli sprint, ha raggiunto dei traguardi che mai nessun atleta aveva toccato su una pista di atletica leggera. Lo avete capito? Oggi parliamo di Carl Lewis. E festeggiamo il suo compleanno perché Frederick Carlton Lewis è nato oggi 55 anni fa, il 1 luglio 1961 a Birmingham, Alabama, ed è cresciuto a Willinghoro, un paese del New Jersey. La madre è un ostacolista professionista, ha partecipato alle Olimpiadi del 52 a Helsinki, 80 metri ostacoli. I genitori sono degli sportivi tutti e due, lavorano come insegnanti a scuola, fondano il club Trek Willingboro, un club di atletica locale. E la cosa naturalmente influenza in modo determinante sia Carl che la sorella minore Carol. E si dice che da piccolo lui, magro, esile, non avesse un grande talento nello sport. Agli inizi i genitori lo spronano addirittura verso un'altra strada, verso la musica, ma la leggenda narra che lui comunque venisse portato spesso a passare il suo tempo libero in pista. Lo lasciavano giocare proprio nella fossa di sabbia del salto in lungo, e qui lui prova a correre, a saltare, è determinato, prova, riprova. Alla fine sarà proprio il padre che capirà che lui ha bisogno di un allenatore, e lo farà lui. Carl ha 7 anni quando tutta la famiglia è incollata davanti al televisore a guardare in TV i giochi olimpici di Città del Messico. Alle 15:45 del 18 ottobre 68, e davanti alla televisione c'ero anch'io, è la volta del salto in lungo. L'americano Bob Beamon scende in pista e lascia tutto lo stadio senza parole. Prende la rincorsa e salta. Bob Beamon took off down the runway and took off into the history books. Il boato dello stadio di Città del Messico sottolinea un'impresa incredibile, un record che rimarrà imbattuto per decenni, complice anche l'aria rarefatta di Città del Messico. Beamon salta 8 metri e 90 centimetri, migliorando di 55 centimetri il record mondiale precedente. La sua impresa verrà annoverata tra i 5 momenti più importanti dello sport del XX secolo. Quello che sembrava inimmaginabile a tutto il mondo diventa realtà, e diventa realtà anche agli occhi del piccolo Carl. Young girl that I know feels she has lost her way. Her only chance of love once passed her by. But little does she know, this is hardly so. E Carl vede volare Bob Beamon, non sa ancora che quel record 23 anni dopo lo batterà proprio lui. E lui per adesso sa solo che vuole allenarsi, inizia a correre con il club di atletica della sua città quando ha 10 anni. Peraltro fa un altro incontro di quelli determinanti in una vita, perché incontra Jesse Owens, si fa fare una foto dal cugino, e quello scatto rimarrà un ricordo, un segno premonitore per Shorty. Dico Shorty perché la sorellina Carol lo chiama proprio così, Shorty, piccolino. Lui è piccolo, è timido, non sa ancora che sta per diventare un pezzo della storia del Novecento. A 13 anni gareggia nelle competizioni scolastiche, salto in lungo, inizia a emergere come atleta promettente fino a quando il suo fisico si sviluppa improvvisamente. A 15 anni è tutto talmente veloce che Carla per 3 settimane deve camminare con le stampelle perché cresce troppo in fretta, le sue gambe si allungano a un ritmo impressionante. Poi finalmente il fisico trova un equilibrio e Shorty, non più Shorty, si sente pronto per una carriera da professionista. E pochi giorni dopo il diploma di scuola superiore nel 79, lui comincia a saltare 8,13, misura ragguardevole, quinta misura nella classifica stagionale di quell'anno. E la sua strada, insomma, sembra già tracciata. Il falco e il gabbiano. Quando un ragazzo si segnala con grosse prestazioni atletiche, arrivano in America le università che cercano di reclutarlo. Lui sceglie di iscriversi all'università di Houston in Texas, ottiene la borsa di studio, Tom Tellez diventa il suo allenatore. È lui che rimarrà accanto a Carl Lewis per molti anni. Dopo un solo anno di college, lui si qualifica nel salto in lungo e come membro della 4% per la squadra olimpica del 1980. Quindi è già un atleta di vertice, ma la partecipazione degli Stati Uniti ai giochi di Mosca viene annullata per protestare contro l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica. La Olimpiade viene in qualche modo, insomma, chiaramente mutilata della squadra più rappresentativa, quella degli Stati Uniti. L'Italia un po' se ne avvantaggia, ma ci sono grandissime prestazioni italiane in quella Olimpiade: Mennea nei 200, la Simeoni nel salto in alto, Da Milano nella marcia, Patrizio Oliva, 8 medaglie d'oro per la squadra azzurra, che si dimostra la migliore tra quelle occidentali in gara. Ma le corse continuano e alla fine del 1980 Carl Lewis è già tra i primi 10 al mondo nelle classifiche sia del salto in lungo che in quella dei 100 metri. Naturalmente è ancora un ragazzino e quindi ci sono gli amici, le passeggiate col suo cane Natasha, i videogames, però nell'81 è già numero uno al mondo nei 100 metri. 2 anni più tardi ci sono i mondiali di atletica a Helsinki, qua ci sono tutti e lui vince i 100 piani, il salto in lungo e la staffetta 4%. È la prima persona a raggiungere questo triplete da molto tempo, da un certo Malcolm Ford nel 1886. Sta per arrivare Los Angeles 1984. Il manager Joe Douglas fa una previsione: lui dominerà nell'atletica e la sua fama diventerà come quella di Michael Jackson. E nella conferenza stampa fa anche capire che si aspetta di concludere ghiottissimi accordi commerciali, ma quell'avidità non verrà ripagata. E la storia racconta che ai Giochi Olimpici dell'84 Lewis vince 4 medaglie d'oro, 100 piani, 200 piani, salto in lungo e staffetta 4%. Ed ecco lo stesso Carl dopo quell'impresa. Da ragazzo pensavo che il mio obiettivo principale fosse di essere bravo, essere il meglio che potevo e divertirmi. È buffo pensarci, ma non ho mai creduto di ritrovarmi dove sono arrivato oggi, 10 anni fa, 5 anni fa, anche solo 4 anni fa. Fondamentalmente perché ho il controllo della mia vita, ho un dono di Dio. E me ne rendo conto, ma tutto ciò che sto facendo mi diverte. E queste 4 medaglie d'oro eguagliano la prestazione di quel signore, di quell'uomo leggendario con cui il bambino Carl Lewis aveva fatto la foto, eguagliano Jesse Owens del 1936. E naturalmente non c'è nessun telegiornale che non paragoni i due mostri americani e che non chieda un commento a Carl Lewis. Think that Jesse meant a lot to me because he had the same types of goals I did. Jesse ha significato molto per me, perché aveva gli stessi obiettivi che avevo io e lo stesso desiderio che ho io. Lui voleva solo dare il massimo e quando la gente lo etichettava in qualche modo era in grado di accettarlo e comprendere che questa è la vita. Ma è rimasta sempre la stessa persona. Ciò che provo a fare io è essere me stesso. Quando sono felice sorrido, quando sono triste sono corrucciato, quando voglio vincere tengo duro e quando sono felice per avere vinto lo dimostro. Quando sono pronto per qualcuno lo sfido, quando non lo sono mi siedo e resto passivo. Perciò provo ad essere me stesso e credo che generalmente la gente possa vedere questo lato di me. You've left me to dream all alone. Con quelle quattro medaglie d'oro, Carl Lewis entra nel mito a 23 anni. È una consacrazione mondiale, però la sua immagine pubblica rimane un po' ferma ai blocchi. La previsione del suo manager rispetto alla sua popolarità non si avvera, perché Lewis è sì in Europa il Michael Jackson dell'atletica, perché è un bel ragazzo, un corridore aggraziato, è glamour, è alto, è bello, ha un bel sorriso, però anche se è riuscito a emulare le gesta di Jesse Owens, i grandi brand non si interessano a lui. Il motivo, per alcuni biografi, risale a una lunga monografia che compare su Sports Illustrated alla vigilia dei giochi, e tra le righe si specula un po' sulla sua sessualità pochino ambigua, e la cosa in un mondo conservatore come l'America degli anni 80 scoraggia molti potenziali sponsor. Quelli che investono su di lui sono quasi tutti giapponesi. Nell'America puritana di quel periodo le cose non decollano come avrebbe sperato il suo manager. Un po' c'è l'avidità del manager, ma forse anche un po' il modo di fare di Carl, che viene ritenuto altezzoso, scostante, con un atteggiamento da primo della classe. E anche se è il primo a rivelare quanto guadagna come atleta, nell'84 si porta a casa $700,000, risponde così alle critiche: sono sempre andato alle Olimpiadi per competere, non per guadagnare. Non corri la tua corsa pensando a quanto metterai in banca quel giorno. È la stampa che sottolinea questo aspetto, non certo io. Più tardi l'allenatore di Lewis a Houston, Tom Tellez, sostenne che Carl era troppo progressista. Disse: questo è il problema, era troppo più avanti di tutti gli altri. Insomma, i colpi d'ala ovviamente sono tantissimi, però si comincia a aggiungere qualche incrinatura nel meccanismo. Il falco e il gabbiano. 9 ori olimpici, 8 ori mondiali, e il suo nome è nell'Olimpo dei grandissimi, forse addirittura al primo posto. È uno baciato dalla natura, pungolato da un padre sportivo, insomma è il figlio del vento, Carl Lewis, quello che si è impadronito della storia dell'atletica, riuscendo a eccellere in specialità diverse, contigue ma non così facili da abbinare, la velocità e lo sprint e il salto in lungo. Eppure stiamo raccontando la storia di un uomo, di un atleta che non è mai riuscito a avere la totalità della simpatia dal suo paese, gli Stati Uniti. E lui ha sempre i riflettori addosso. Stanno arrivando i Giochi Olimpici di Seul 1988. Lui vuole conquistare altri 4 ori olimpici, eppure difende il titolo solo nel salto in lungo, vince con 8,72 metri. Poi arriva secondo nei 100 metri, corre in 9,92, ma viene preceduto da un altro atleta che sembrerebbe uno in grado di offuscarne la gloria. Questo atleta si chiama Ben Johnson, lo odia profondamente, dice che è un grande atleta ma un piccolo uomo. Lewis arriva secondo nei 200 metri e peraltro la 4% viene squalificata per un errore di cambio. Accade però un fatto senza precedenti, perché Ben Johnson viene trovato positivo ai test antidoping, ammette di aver fatto uso di sostanze dopanti anche negli anni precedenti. Dopo la squalifica vengono ritirate le sue medaglie d'oro. Insomma, Carl Lewis riceve il titolo di campione mondiale e olimpico dei 100 metri. Gli anni stanno passando. Dopo il 1988 il predominio di Lewis nello sprint comincia a svanire, ma le sue prestazioni nel salto in lungo rimangono eccezionali e lui emoziona il mondo duellando ai mondiali di Tokyo del 91 con un altro signore che sta facendo molta strada nell'atletica, che si chiama Mike Powell. Escono due miracoli da quella pedana: prima Lewis salta e fa 8,91 battendo Beamon, ma poco dopo Mike Powell lo batte 8,95. Powell, good sprinting speed. Oh, that is huge. That is huge. Will he get the white flag? And Mike Powell celebrates not only a gold medal. Insomma, il leggendario record mondiale di Bob Beamon, quello del 1968, viene infranto due volte e i due atleti in quel momento sono grandi rivali, oggi invece sono amici. Ma ecco cosa dirà proprio Mike Powell nel 2013 a proposito del suo duello con Carl Lewis. Eravamo affamati entrambi, io più di lui. Entrambi sapevamo di dover fare un miracolo, il record del mondo. All'epoca Carl Lewis era una leggenda vivente nella mia specialità. Come potevo misurarmi con lui? Voglio dire, come si poteva avvicinarlo senza creare, anche involontariamente, un attrito? Se mi avvicinavo, lui ruggiva. Era pieno di sé e lo capivo. Forse quella sconfitta lo svegliò da quel torpore in cui viveva, dove si sentiva intoccabile, almeno nel lungo. Mentre se io avessi perso, sarei rimasto esattamente ciò che ero, ossia me stesso. Adesso sono forse nella storia, ma non mi interessa di restare nella storia per un giorno. Preferisco restare come insegnante di atletica e spero di vita. A 35 anni Carl fa il suo ritorno nel salto in lungo durante la sua quarta Olimpiade consecutiva, Atlanta 96, e contro ogni pronostico, lui che tra l'altro dal 90 era diventato vegano, vince, diventa il terzo atleta della storia capace di vincere 4 titoli olimpici consecutivi in una disciplina individuale. Uno era Elmstrom nella vela e l'altro era il mitico Al Herter nel lancio del disco, che vinse nel 56, nel 60, nel 64 e nel 68. Carl Lewis continua a non piacere ai suoi rivali, tutti si lamentano di quest'aria di superiorità che può sembrare arroganza. Lui, dopo i giochi di Atlanta, si ritira, fa il cantante, addirittura nell'85, quando ancora gareggiava, aveva anche fatto un album, poi appare in una serie TV, poi in film, 6. L'unico che riscuoterà un po' di successo è il film Challenging Impossibility del 2011, un documentario sul maestro spirituale Sri Chinmoy, che lascia l'India per New York e diventa un maestro del sollevamento pesi a 54 anni. E poi negli anni si sposta al mondo della pubblicità, per qualche milione di sterline si fa fotografare per la Pirelli, pronto a partire per una corsa con un paio di scarpe rosse laccate, una foto famosissima con i tacchi a spillo al posto delle scarpe da gara. Gioca sull'ironia, su un effetto che è assicurato, visto che da sempre Lewis è accompagnato dalla fama di essere gay. È uno che si mette le scarpe laccate rosse a spillo, insomma, in qualche modo non smentisce queste voci. E in uno spot cammina sulle acque, poi cammina sulla Statua della Libertà, gioca sul suo noto egocentrismo. Insomma, Carl Lewis ama a questo punto della sua vita sorprendere, provocare, anche se ripagato da milioni di dollari, però si dedica anche a iniziative di grande spessore, si impegna verso i meno fortunati, conduce una battaglia per far uscire l'atletica da quel falso, ipocrita dilettantismo, lotta contro il doping, però anche lui in qualche modo ne viene coinvolto, perché nel 2003 una rivelazione lo rimette sotto i riflettori, perché secondo alcuni documenti anche lui aveva assunto degli stimolanti prima delle Olimpiadi dell'88, ma non era stato trovato positivo al tempo. Lui ammette che gli stimolanti erano stati assunti involontariamente perché contenuti in prodotti che aveva acquistato in erboristeria. E poi torna alla ribalta quando si schianta in macchina e il suo livello di alcol nel sangue è oltre il limite, viene condannato alla libertà vigilata con 200 ore di servizio nella comunità con la disposizione di frequentare gli alcolisti anonimi. Insomma, le cose girano ma non alla perfezione. Poi si annoia, non sa cosa fare, arriva anche in Italia, ospite del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, e siamo nel 2010. Ladies and gentlemen, dall'Olimpo dell'Atletica Leggera, una leggenda vivente, il ballerino per una notte, il re della velocità, accompagnato da Nancy Berti, il figlio del vento, Carl Lewis. Ladies E nel 2011 prova anche la carriera politica, annuncia che corre per il Senato nello stato del New Jersey, però in realtà ha trascorso più tempo in California che nel New Jersey, insomma viene costretto a ritirarsi. Il tempo passa e lui colleziona cristallerie, disegna tute sportive, si dedica alla sua collezione di moda, segue le sue 4 fondazioni benefiche e poi nel 2014 arriva una telefonata inaspettata, è quella del suo vecchio compagno di squadra e amico Leroy Barrer. Ciao Carla, sono Leroy. Ciao Leroy, come va? Bene, ho avuto un'idea e voglio parlartene subito. Dimmi. Pensavo alla pista di atletica dell'università e mi sei venuto in mente tu. Perché non fai qualcosa di buono per i ragazzi della città e vieni ad allenare la squadra della tua vecchia università? E Carl decide che questa è una buona idea. Inizia a allenare i giovani studenti presso l'università di Houston. All'inizio ha qualche problema perché non sa bene cosa dire ai giovani per motivarli, fino a quando non capisce che l'importante è dir loro la verità. Ora so che quello che vogliono sentire è la verità. Dico ai ragazzi che ho vinto 9 medaglie d'oro, che sono stato l'olimpionico del secolo. Non prendo un centesimo per allenare questa università. Non ho bisogno di niente da loro, ma voglio che vincano e voglio che lo facciano per l'università di Houston. Lo voglio per loro e lo voglio per le loro famiglie. E la sua rimane comunque una voce importante per tutto il mondo dell'atletica, anche oggi, che vive vicino al campus di Houston, che fa l'allenatore di ragazzi, si dedica solo a questo. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e qui, parlando del figlio del vento, di colpi d'ala ne abbiamo visti parecchi, sia nella velocità sia quando c'era da liberarsi sulla pedana del salto in lungo. Insomma, una vita straordinaria, ovviamente complessa e controversa come tutte le vite, però ognuno può cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi nei miei social, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì.